I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Oggi conosceremo nei dettagli come si articolerà la manovra finanziaria o legge di stabilità, come adesso si chiama. Molte le misure annunciate e anticipate in questi giorni dal Premier. Un'amarezza però la si può già sottolineare ed è quella che va sotto il nome di Spending Review, ossia revisione della spesa. Quando Carlo Cottarelli, l'ex commissario alla revisione della spesa pubblica, lasciò, aveva individuato in 10 miliardi i risparmi di spesa possibile. I 10 miliardi a questo punto sono scesi 8 ed è molto probabile che scenderanno a 5 miliardi, ma cosa ancora più negativa, che si tratterà di risparmi ottenuti in maniera lineare, quindi con i tagli del 3% al budget dei ministeri e non mirati. Se non arriveranno indicazioni certe sui prossimi passaggi, si tratterà di un'occasione persa, in primo luogo perché i tagli lineari non hanno mai funzionato, comprimono la spesa temporaneamente ma poi tende a riesplodere, in secondo luogo perché sono ingiusti, vanno a tagliare ministeri e attività della pubblica amministrazione che magari hanno già compiuto risparmi e non vanno a decurtare ancor più bruscamente invece quelle amministrazioni pubbliche che vivono sullo spreco o sulla improduttività. C'è da augurarsi quindi che il venir meno dell'apporto della Spending Review nella legge di stabilità non voglia dire il venir meno dell'impegno del governo sulla Spending Review, a partire da quei 32.000 centri appaltanti di spesa che andrebbero ridotti a un decimo e a partire anche dalle 8.000 partecipate dagli enti locali di vario livello, 3.000 delle quali hanno meno di 6 dipendenti, molte delle quali non hanno nemmeno mai presentato un bilancio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato la manovra 2016 che comincia oggi la sua lunga navigazione sia in Europa sia in Parlamento. In attesa di vedere bene i dettagli è confermata l'abolizione della tassa sulla prima casa. Beh, Renzi ci ha creduto fino in fondo e lo ha detto anche poco fa in conferenza stampa. Si tratta di una scelta politica, è una strategia che nelle previsioni del governo potrà riportare fiducia, potrà ridare slancio ai consumi delle famiglie e fare anche bene all'occupazione, visto che proprio il settore immobiliare è stato quello più colpito in questi anni dalla perdita di posti di lavoro. L'altro capitolo molto atteso è quello sulle imprese. Ci sono due notizie, una diciamo positiva, l'altra così e così. Il taglio dell'IRES, che è l'imposta sulle società, che dovrebbe scendere dal 27,5 al 24%, scatterà solo nel 2017. A meno che la Commissione europea non consentirà all'Italia di utilizzare un ulteriore margine di flessibilità sui conti legato alle emergenze migrati, però per ora niente taglio di aliquota. Scatterà invece da oggi, 15 ottobre, ha detto Renzi, il bonus per chi acquista macchinari e che potrà beneficiare di un trattamento fiscale di maggior favore che va sotto il nome di superammortamento. Nel complesso la manovra 2016 vale circa 27 miliardi, di cui però 13 finanziati in deficit con le clausole di flessibilità concesse dall'Europa. Di tagli alla spesa e razionalizzazioni, questo è forse il vero limite di tutta la manovra, ancora se ne vedono pochi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.